assolutamente legittimata dal contesto sociale in cui si trovavano. Quello che mi fa pensare che tantissime partigiane di cui ho letto le interviste che parlano appunto di questa forte rottura durante la resistenza abbiano poi constatato con amarezza che finita il periodo della guerra, e quindi finito il periodo dell'eccezionalità, molte cose siano poi ritornate le stesse di prima, che quindi se la resistenza in qualche modo le ha dato loro la possibilità di il contesto sociale poi che hanno si sono ritrovati intorno dopo la liberazione, la fine della guerra non era poi così mutato, nonostante tutte le spinte di liberazione, di emancipazione che c'erano state, ecco. Certo. E guarda, noi ti ringraziamo tantissimo, purtroppo siamo fuori tempo massimo e ci ha fatto tantissimo piacere sentirvi, speriamo di sentirvi ancora per condividere tanti ragionamenti, ci farebbe moltissimo piacere. Assolutamente sì, quando volete, grazie per questo spazio. A questo punto speriamo insomma di ricambiare al più presto all'interno del Colpo della Strega. Grazie, salutaci tutte le Medee. D'accordo, un saluto, ciao. Un abbraccio a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. E purtroppo dobbiamo andare a chiudere. E vi volevo leggere un piccolo pezzo tratto dal numero 32 di Zapruder, un articolo di Lidia Martin, Come ti ho fatto, quindi ti disfo. Sì, è un modo di dire delle mamme alle figlie. E, questo pezzo viene ripreso da un altro libro di Marisa Ombra, Donna e Resistenza, una sconvolgente scoperta. Per noi donne, andare in guerra e imparare allo stesso tempo la politica è stata una sconvolgente scoperta. La scoperta che la vita era, poteva essere qualcosa che si svolgeva su orizzonti molto più vasti rispetto a quelli fino allora conosciuti. Che esisteva un'altra dimensione del mondo. È stato quindi un evento che ha modificato la nostra stessa idea di vita. È stato prendere a pensare in grande. Due ultime note proprio per chiudere. Allora, una che riguarda un articolo che abbiamo trovato su un altro genere di comunicazione del 25 aprile dell'anno scorso, ma che è sempre attuale e che dice: il femminismo è solo antifascista. Simone de Beauvoir nel 1976 scriveva, nel secondo sesso 25 anni dopo, una femminista si consideri o no di sinistra è di sinistra per definizione. Lotta per un'uguaglianza totale, per il diritto di essere importante, valida quanto un uomo. È per questo che l'esigenza dell'uguaglianza delle classi è implicita nella sua ribellione per l'uguaglianza dei sessi. Chiaramente ricordiamoci quando scrive Simone de Beauvoir, no? E dice queste cose. Infatti, continua l'articolo, scritta in un periodo in cui essere di sinistra aveva valenze rivoluzionarie che non tutte erano pronte a rivendicare per estrazione sociale, culturale o per pudore femminile, che convinceva le donne ad essere inadatte alla vita politica. Questa affermazione ha ancora un valore attuale. Nella giornata di commemorazione del 25 aprile potremmo citarla modificandola così: una femminista è antifascista per definizione, altrimenti non è femminista. E dato che non abbiamo che abbiamo dovuto saltare la parentesi perché non ce l'avremmo mai fatta, volevo leggervi in chiusura due note che poi tanto troverete nella parentesi che caricheremo sul blog, anzi tutti i materiali li caricheremo sul blog e coordinamenta.noblogs.org, e per scriverci potete scriverci a coordinamenta@autistiche.org. Allora, una società ottocentesca, medievale, nazista. La società neoliberista si sta caratterizzando per tre aspetti che si combinano e si supportano. È una società con caratteristiche ottocentesche, medievali e naziste. È una società che sta riproponendo condizioni di vita proprie dell'Ottocento, situazioni di degrado del tempo di Dickens. Le avvisaglie ci sono già, i bambini che non pagano la mensa nella scuola pubblica possono venire allontanati, devono mangiare in disparte il panino portato da casa. E se non lo hanno? Emergency ha creato anche qui in Italia postazioni mediche volanti per le strade, cosa già attuata da anni nella civile Inghilterra, perché è moltissima la gente che non può accedere alla sanità pubblica. In Spagna i migranti muoiono di tisi per la strada perché la sanità pubblica è riservata solo ai residenti. Il quadro istituzionale tende a riproporre i collegi uninominali, forma di conservatorismo sociale. È una società con caratteristiche medievali perché ripropone in maniera forte le corporazioni, le lotte categoriali e le associazioni di categoria. Le tutele avvengono per gruppi sociali che si riconoscono in un mestiere, in una condizione, come avviene anche per le donne, per gli omosessuali, per i migranti. La borghesia transnazionale si pone come una nuova aristocrazia. È una società di stampo nazista per il trascinamento sempre più evidente dello stato dallo stato di diritto allo stato etico, per la pretesa di normare ogni aspetto della vita, compresa la sfera personale, sessuale e ludica, per l'affossamento di tutte le forme politiche di mediazione, partiti, sindacati, forme di rappresentanza parlamentare e per la tendenza al governo diretto dell'iperborghesia, di chi detiene il potere economico, per l'asfissiante controllo sociale con l'utilizzo di ogni possibile tecnologia. I socialdemocratici e le socialdemocratiche hanno rinunciato al loro compito storico di intendere la politica come arte della mediazione e del compromesso e sono diventati i missionari del verbo neoliberista. Menta vi saluta, ringraziamo la trasmissione successiva di Elettrodo che ci ha concesso qualche minuto e volevamo insomma salutarvi e augurarvi buon 25 aprile. Ora è sempre resistenza! Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my hands I could be beheaded. They must have paid her a nice price. She's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Never was a cornflake girl. haces para esconder esa tristeza, esa fatiga de mujer de pocos años? ¿Cómo haces para que triunfe la belleza bajo el llanto de tres hijos y un engaño? El aceite va quemándote las manos y te quiere quemar el alma entera. Esa angustia trata de colarse en vano. Sacas fuerza de un misterio y la echas fuera. Tienes la noche en los ojos, tu mira del alma aparte. Tus labios son de otro rojo, mujer, déjame cantarte. Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Qué vida la que te tocó esa piel de niña, qué dignidad hace que esa tu risa estalle. Historia triste y el olvido se encariña. Juanita de Arco, cocinera de la calle, quisiera hacerte una canción de amor cualquiera, pero las musas el romance no me entregan. El aceite hierve y dos hombres esperan sus comidas y a un lado los niños juegan. Son varias horas al día y la pequeñita con tos. Mujer de la patria mía, yo sigo creyendo en vos. Ay. We'll be right back. 21 e 18 in lieve ritardo inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì, per cui anche oggi 23 aprile del 2014. Spazio che andrà avanti fino a circa le 22.30 e ruberemo magari qualche minuto a 25 o'clock, che quindi andrà avanti fino al cuore della notte per concludere questa giornata. 0649 1750 il contatto telefonico, il sito internet è www.ondarosse.info anche per ascoltarci con un computer e quindi con lo streaming. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e per quanto concerne lo spazio di prove tecniche è disorder@ondarossa.info. Infine 6180 4001 è il conto corrente postale che va intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Virevolci 56 00185 Roma. Tutto ciò si può rintracciare anche attraverso il nostro sito. Andiamo in Francia, iniziamo con Nebulo, uno dei tanti progetti che incide per la Aimen, il cui significato è facilmente intuibile. Aimen è la sussidiaria, diciamo, più affine all'EDM della Antezen. Questo album di Nebulo si chiama Cardiac, si apre con Octo e poi ci ascolteremo Red Cloche. Thomas Pujols, ossia Nebulo, in questo lavoro del 2012 che si chiama Cardiacs. Progetto dunque francese per la Hymen Records, etichetta tedesca, parallela alla Antzen, quindi stiamo parlando di Francoforte e dintorni. E a proposito di Germania, andiamo a salutare con molto piacere Medien Production da Amburgo, legato in qualche modo a questa trasmissione. E noi rimaniamo più o meno su queste atmosfere e lo facciamo con ancora una volta Zero Degree, questa volta da questo EP del 2009 dal nome Halfbrook. Questa è Zentralgaltism e l'ultima traccia di questo lavoro, Passage. We'll be right back. e in queste settimane ci siamo ascoltati gli unici EP prodotti da Mattias Ernhardt, in arte Zero Degree, EP che portavano il nome di Rot del 2006 e Aufbruch del 2009, entrambi uscivano per l'Audiophob. Una delle migliori espressioni per quanto riguarda l'ambient e l'IDM, e nel suo caso anche divagazioni trance. Torniamo ancora indietro nel tempo, sfruttando una compilation di Clinic di Dirk Evans e Mark Vergen, si chiama Black Leather. Oggi ci ascoltiamo Memories e Nursery. We'll be right back. chiama Black Leather, questa compilation di Dirk Evans, Mark Verheggen e quindi i Clinic. Compilation che uscì in prima stesura nel 1990 attraverso l'Antler Subway Records e ristampata 15 anni dopo attraverso la Ense Productions di Udo Wiesemann. Qui c'è il meglio per quanto riguarda gli EP di Clinic, la prima produzione di Clinic, quindi stiamo parlando dell'84-88. E oggi ci siamo ascoltati in Memories, è una traccia anomala per Clinic, ossia Nursery. Adesso il turno di David Tibbet e i suoi Current 93 e torniamo ai giorni nostri con I Am The Last Of All The Field I What Fell, ultimo lavoro, uno dei migliori di questo 2014. Anche qui il solito pianismo notturno e le solite onde psichedeliche degli ultimi lavori di Current 93. Why Did The Fox Bark e Spring Sand Dreamy Larks. He kills and he makes alive. He forms the light and creates darkness. He makes peace and creates evil. He can open the seals because he wrote the code. He can prophesy because he is the prophecy. He is the prophesied stone forward and backward. The Father and the Son housed in one. El Evan, God is the stone, the chief cornerstone, the top stone of the corner, the headstone, the capstone, the Aleph, the beginning of everything, and the end of everything, the first and the last. Why did the fox bark? Why did the lark soar? Why did the brook hide home to hide from the reaper? In suited spectre to grub up irises with lilies as Greek keys or Hebrew coats to cover my face with your face. Your breath into my breath to make your words my seed and to spell your telltales as sunshot and moon mouth. Your heart sound, you would rain arc and arch as the picnic magic covered your eyes with gold and honey and millions of years and myriads of stars. Chafer and Griffin, the antelope sky matched your eyes that around you sang of Dante and Uruk and Paul and the bells covering my heart. The bells calling in your fame amongst the cynical dead and the shades of worn empires and shabby Caesars wrapped up warm in the face of the ball storm. As cozy as clouds or mice in the walls or murderers hiding in the peppermint palaces around the bars and blackbirds cawing and soaring and blessed op singing soaring as Akkad and Achad as Hank and Anchor. Smoke. orange groves and airy sea. Never treat the dead. At a picnic and magic, the friend that's now lost. The time slipped by in whistling Black Crack Aleph. A Black Crack Aleph. A Black Crack Aleph. Crack Crack Aleph. Smacked in your tap. Black Crack Aleph. Now call crows or dreams down. Owl in fashion green. Of tricks and clocks say, do not eat the dead. As do not nourish yourself on the dead. What is the cost of sand in an hour? What is the cost of blood as mist? What is the cost of a child in your heart? His castle face. He is the one who was and is and shall be forever the victor. The way of the truth is life. He is all and in all, complete, leaving nothing to be desired but the Aleph. E dunque uno dei lavori più interessanti di questo inizio 2014, l'ultimo Current 93 di David Tibbet. I am the last of the field that fell, con ottimi collaboratori che rispondono al nome di Nick Cave, che sta andando sotto la mia voce, Anthony the Johnsons e lo splendido sax di John Zorn. Slept in steep ships. Prendiamo anche il pretesto per salutare Like Awake, che invece esprimeva giudizi radicalmente diversi dal sottoscritto, minacciando di andare su Radio Maria se passassi ancora una volta questo album. È l'ultimo passaggio dopo circa un mesetto effettivamente, ma personalmente un album che mi ha colpito moltissimo, per cui chi ha avuto, diciamo, la sfortuna di ascoltarmi negli ultimi periodi se l'è sorbito non poco. Or might you cartoon Judas and cast in flower room. Andiamo in Ungheria, lo facciamo con Chris Falliu, questo è Untitled, secondo lavoro di 3 anni fa, un album che uscì per questa etichetta della Repubblica Ceca, l'Epidemy Records. Ci ascoltiamo Uzd e Bestiat e Agon. Heaped up like rivers.